Adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo adesso dove andiamo? Stai calmo, non pensarci che io ho una mezza idea. Montiamo tutti in macchina che andiamo su all'Ikea. Si è rotto il tavolino, raga, adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo adesso dove andiamo? Stai calmo, non pensarci che io ho una vaga idea. Montiamo tutti in macchina che andiamo su all'Ikea. Sto mobile di legno, c'è un po' strano, dacci un occhio. Al naso e di cappello, che cazzo è Pinocchio? Dei dammi calciavite che mi monto il mobiletto, poi cerco nella scatola il foglietto maledetto. Ecco che dopo un paio d'ore trovo le istruzioni. È tutto in giapponese, coreano, che coglioni. Ero andato col pensiero di voler la scrivania, ma cazzo per montarla ci vuol laurea in biologia. È scritto tutto strano, non so se mi spiego. Mi sa che mi conviene costruirmela coi Lego. Adesso se ho capito perché qua non costa un cazzo. Per montare quattro sedie devi farti il mazzo. Si è rotto il tavolino, raga, adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo adesso dove andiamo? Stai calmo, non pensarci che io ho una mezza idea. Montiamo tutti in macchina che andiamo su all'Ikea. Si è rotto il tavolino, raga, adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo adesso dove andiamo? Stai calmo, non pensarci che io ho una vaga idea. Montiamo tutti in macchina che andiamo su all'Ikea. Accendo e all'improvviso appare il logo giallo e blu. Non sai quanto è difficile affrontare la TV. Pubblicità ingannevoli che vendono salotti, e poi mi viene il dubbio siano fatti di biscotti. Invece quel loghetto con la K blu in rilievo afferra la mia mente, faccio subito un prelievo. Ricarico la carta e faccio in fretta l'autostrada, che quasi con la macchina bruciavo la strada. Contento torno a casa col mio grosso scatolone e aspetto calmamente poi che arrivi l'ascensore. Ma poi arrivato a casa apro e scopro, sei sorpreso, il pacco che ho portato non è quello che volevo. Si è rotto il tavolino, raga, adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo adesso dove andiamo? Stai calmo, non pensarci che io ho una mezza idea. Montiamo tutti in macchina che andiamo su all'Ikea. Si è rotto il tavolino, raga, adesso che facciamo? Negozi tutti chiusi, cazzo adesso dove andiamo? Stai calmo, non pensarci che io ho una vaga idea. Montiamo tutti in macchina che andiamo su all'Ikea. Ma credimi, alla fine qua c'è solo una questione. A fare queste spese a me viene l'indigestione. In Ikea, Mercatone, un altro centro commerciale. A vedere questa gente pazza viene solo male. Tutti che corrono con sfreno su e giù per le scale, con borsa in una mano e sull'altra un animale. Che fin due ore fa stava tranquillo sui tappeti ed ora sta impaurito in una bolgia di partiti. Ormai siamo in un mondo che è la globalizzazione. Non c'entra affatto l'euro e manco la generazione. Non c'entra la TV perché sta tutto nella testa. Andiamo su all'Ikea che c'è il mobile in offerta.